Gianni, ho detto Gianni, ma il microfono normale di questa radio perché me l'hai dato, cosa te ne fai? No, dice, no, non me l'hanno dato ormai il microfono normale. E siccome di mezzo c'è Gio Maria, di passaggio c'è anche Gio Maria, e quindi tra me e Gio Maria abbiamo capito che cosa è successo, da dove è arrivata tutta la fonte, capito? Cioè, ti pare che tu compri una radio senza il microfono originale? Io gli avevo dato tutto, tutto, dalla A alla Z, perché io ho tutte le scatole delle radio, il 950 che c'ha Fabrizio, la scatola di Fabrizio è qua, è su in soffitta, il giorno che Fabrizio mi chiede la scatola io devo essere pronto a dargliela, perché non è la mia, capito? Non è la mia, è la sua. Quindi, se posso io dare a te una radio senza il microfono da palmo, suo originale, in dotazione alla radio, poi l'MC60 è una cosa, o sbaglio a tutto? Beh certo, la roba di serie te la deve dare tutta, tanto è vero che quando si vende una radio, anche se vendi, la vendi correlata all'MC60, devi comunque dare il microfono base, che è la saponetta, che si chiama esattamente, ne dovrei avere uno qua, sembra MC6043 se non sbaglio. Esatto, l'M43, e costa quel microfono la belletta di 53 euro, mi pare che io adesso la radio l'ho presa perché la voglio usare e eccetera, mi serve, ok, poi mi piacciono questi tipi di radio, 140, 180, eccetera, ok, ma se io dovessi decidere di vendere la radio, dimmi tu con quale criterio do la radio senza microfono, cosa le do, MC60, no, MC60 io me lo tengo, devo dare il microfono originale, capito? Quindi sono costretto lunedì a chiamare a Franco o Montanari, a Magic Phone, e farmi ordinare e farmi mandare un microfono, un M43, perché la radio senza microfono originale non si può vendere, punto. Avanti Giovanni. Ma infatti, come faccio a dare una radio senza microfono? Non è possibile. Ma io gliel'ho chiesto anche, ma ha detto che non ne aveva, capito? Quindi che ho fatto costretto, mi sono preso nel MC60, ho detto per me va bene ugualmente. Ho aperto, ce l'hai spenta. E quando l'ho dato la faccia, non parlare di uso aperto. Non ne avevo, ho dato quello e così via già. E macello veramente. Io, per carità, vabbè, riprendo. Capa, sono quelle cose che non sono molto carine, dai. E vabbè, speriamo si redima, non so di chi state parlando comunque. Pensiamo ad altro. Chi è rimasto in ruota? Chi posso girare il mic? E chi dovrebbe essere Graziano che stava. Anzi, stava entrando nella roba, dice che stava piovendo, vediamo un po' se è rientrato. Avanti, Graziano. Grazie, deve essere ancora indaffarato, fra riprendi tu. Sento un fischio sotto. Comunque, il C80 è qua, ho già mai quello che sto usando, perché c'ha i 6 metri, e quindi mi serve per fare un tipo di attività. Ok, aspetta, mi scrive il telefono, riprende subito Giovanni. Ma io volevo anche, siccome ho visto che c'aveva anche l'accordatore, c'aveva, no? E io l'ho chiesto, e ne voleva 100 e rotti, e ho detto vabbè, forse lo prende, invece un giorno che ero deciso di prenderlo, e se l'ha venduto a un altro, e gli ha dato per una cazzata l'ha dato, perché vogliamo, riprendato che abbiamo discorso, se no divento nervoso stasera. Prode. Ma perché al telefono? Giovanni, un secondo solo, riprendiamo subito. Eia. Ciao Giovanni. Oi carissimo, buonasera. Svegliato? No, io stavo guardando la partita, la Juve, lo sport stavo guardando. Mi ha fatto chiacchierare per l'ultimo minuto, accidenti alla Juve. Stava vincendo 2-0 al primo tempo, poi si è fatta la Juve, ha pareggiato 2-2. Vabbè, per il Maeda. Peggio per loro, tanto io non ci guadagno niente. chiaro, cioè, non ne ho di quei problemi. Non mi fa, a me non mi fa il calcio, guarda. Mi dai che è la forza più, eppure non mi fa. Io mi guardo solo le partite magari internazionali, ecco. Quelle partite le guardo, ma le altre partite non le guardo, non mi fa, assolutamente. Se mi dici del ciclismo e del pugilato, beh, volentieri, perché me lo guardo la notte e quasi tutte le notti lo vedo, perché c'è il canale, perché c'è la parabola e trovo il canale giusto e trovo anche il pugilato. Ma proprio il calcio non me ne è nato mai a giro, non so perché, boh. Beh, ognuno ha la sua passione, certo. No, ma il ciclismo e anche il pugilato che lo guardo anch'io tante volte, anch'io ce l'ho la parabola, dunque lo seguo sempre. Sì, vabbè, meglio mai. Va bene, non è un problema. No, perché era l'occasione per guadagnare ancora altri due punti in classifica, invece no, va bene, poteva anche perdere, perché anche la Roma con la Lazio ha pareggiato, la Roma è seconda in classifica. Se avesse vinto la Roma sarebbe stato ancora peggio, perché avrebbe raccolciato di ancora due punti. Comunque sono rimasti 6 punti di vantaggio. Babu, e allora cosa si dice? Più o meno, credo, cioè, una giornata muda, poco fa, anzi stasera sembrava che c'era il sole, ero tranquillo lì, mi stavo facendo una pellichella proprio di fronte alla strada, in sala, con la poltrona, e stava bene perché c'era anche a casa, altrimenti dopo si è annuvolato, c'avevo freddo, no, me ne sono passato qua. Ancora mi lascio, fanno l'acceso, mi sembra che l'accendo adesso là. Dalle 4 devo accendere, invece sono già le 5:05 e ancora l'ho accesa. Mi sono dimenticato, chiacchierando con Graziano, e si è passato l'ora, nemmeno accorto, mi sono tutto lì. Ma cosa vuoi fare? Perché se no sarei sceso in campagna, ma la giornata era brutta, assolutamente. Quando fate po' bello ci scendo, quando no ci sono a casa in caldo. Io vorrebbe essere Antonio in quel Rixi, Graziano in quel Rixi, che sta ritirando i panni da Sesi, e Claudio al telefono. Vediamo un po' chi è entrato, lascio un po' di bianco, dai. Eccomi, chi è entrato? Buonasera, chi è entrato? Circolari. Ciao, grazie, ciao. Salutoni. Cos'è che vendi? Le mutande stavi ritirando. E allora, il tanga. Sino da quel più e mi rinfondi. Andare. Dunque, hai detto che c'era anche Antonio poi, no? Antonio ci sei. Antonio è andato a mangiare la Fainì, non c'è altro nessuno, io, Dio Maria e Graziano. E vabbè, Graziano, vuol dire, sì, comunque hai fatto bene, perché sicuramente piove, si è visto il cielo, si è visto che è diventato abbastanza brutto, e penso che per stanotte pioverà, non lo so, speriamo di no, pagavano i propri tracchi di sera, anche se a dire la verità il vento quest'anno non è che ne ha fatto un po' di tanto. Ad ogni modo a noi ci piace l'estate. Gianmarino, vada in campagna quando mi freddo, che te lo fa fare? Ero un po' disattento, sta dicendo giù. Ho detto, quando fa freddo in campagna non ci andare, che te lo fa fare? Dai, quando fa belle giornate bisogna andare in campagna. Magari qui almeno si può accendere anche la graticola, si può accendere e mettere qualcosa a scaldare, non a cucinare, ma a scaldare. Ui, vabbè, dai. Accettiamolo com'è il tempo, dato che non comandiamo noi. Cosa ci vuoi fare? Poi fai tempo, poi luce, ma come le vuoi? Oh, tempo suo, per cui bisogna anche capire queste cose. Tempo suo davvero non deve fare, così che rimaniamo in casa. Oh, ma infatti non ci sono sceso perché c'era la rietta, perché. Oh, assolutamente. Ma quando c'è la giornata bella che si può scendere alla scena. Avrei voluto fare un po' di aranci magari, ma che li so fare tutti in terra nel parelli, sai? Se lo vento di salati di Brattamone che nasce, vento freddo, tutti un aranci me ne chiudendo in terra. Allora, io faccio fatica a trovare le arance Washington, ma vedo che le arance Navarre, sinceramente non è che mi vanno molto, e a me mi piacciono che siano, non dico che devono essere dolci come lo zucchero, però che devono essere dolci, non purtroppo aspre, per carità, quelle ti fanno anche bruciare il stomaco. Non riesco a trovare le arance come si deve, eppure nel cartello c'era scritto Washington, quello che ho comprato ieri, e invece Washington, quando tu li mangi poi sono aspre come un coso, per carità. Bravo, grazie, avanti. Eia, un minuto, rientro subito, riprendi giù. Ok, avanti nei mondani, nei mantelli, graziano, Giammarì. Mi pare che ho sentito una vocina di dietro e speriamo che non ne stia saltando qualcosa, grazie, perché quello è pericoloso, è come li salta a testa, Emmy. Non so, si vede che ha visto qualche consumino lì sul filo steso e quando lo stava ritirando cade nel nido e prende un pensierino. vabbè, ecco, è giovane, va bene, non ci sono problemi, ci mancherebbe altro. Ui. Comunque non posso sbagliare a pareggiare la Juventus, a ogni modo non me la prendo più di tanto, chi se ne frega, tutto sommato, tanto non mi guadagno niente. Infatti, allora bisogna prendere come viene giù e non si bisogna preoccuparsi. Vediamo un po' se c'è ancora Antonio Grode. Grode, ci si. Attento, Crodino. E quello deve essere ornareggiando, saldando deve essere, inciafuriando. Claudio, al telefono. Va, vediamo qua. Vediamo un po'. E così è giù. E beh, stamattina è uscito, sì. Stamattina sì, mi sono fatto un giretto qui in zona, ho trovato un paio di persone, quattro chiacchiere e si è passato lo manzano. Succede sempre così, E vabbè, comunque, andiamo bene lo stesso, non è un problema. Non è un problema. Cosa ha detto, che c'è anche Claudio, vuoi al telefono? Era qua, infatti, al telefono ha detto che per cui è in Corrix. Sarà di malumore anche lui per la Juventus, guarda adesso, a parte tu mi dirai, ma che te lo può fare? Sì, in effetti hai ragione, non me lo può fare nessuno. Ma me la fa sì, ci mancavano 2 minuti mi sembra, finire la partita e si è fatta raggiungere, porca mia. Ma poi la risubbede di brancia di Buffon, caspita, per carità, quando io lo temo, quando lui mi prende il pallone con i piedi lo temo, ma lui prende da sì, o papiri. Vabbè, dai. E beh, grazie a finito hai. Chi se la faccia data va giù, non lo chiamare no, sennò lo disturbi adesso. Ehi! Me. Eia, no, mi le rubigeni sa roba asciutta, quella un pochettino ghiacciata, non infusa, ghiacciata. L'ho messa di fronte alla stufa, così me la asciuga più bene. Ehi, fai bene, fai, attenzione. Se non ti basi male, i mutanti ghiacciati ti basi di male, invece dei buoni mezzi caldi, e in chi vedi ne vuoi tu? Vero, allora, mica me le pongo congelate, anche dentro il cassetto, prima di prenderle, le prendo e attacco lo scaldino e le faccio scaldare. Ah, intendi. Giammarì, te l'immagini, si tratta bene, sì. Ehi, quanta quello, infatti, da la sa giusta e riesce sempre all'intento suo e già si vede, si nota anche, così è grazia. Ma ho sentito una vocina dietro, poc'anzi, ma a fianco c'era la signorina. No, stava prendendo l'altra roba, chi no che mani fare un grattacielo di massoni, un'altra lavatrice pronta, la senere c'è nera, lei se la spesa adesso. Bisogna lavare, bisogna consumare, i soldi ci sono a pagare la luce e l'acqua, sei tranquillo, grazie, non c'è quel problema là, come noi, io ho sempre un problema dei soldi, tu problema dei soldi non ne hai, per cui lava. Bisogna pure lavare la roba, poi la domenica fare fatta apposta. Che c'è troppo la bolletta dell'acqua e quella della luce, Giulio. E allora, ma si sa, tra il sabato e la domenica ci sono i grandi lavaggi, è logico, perché noi ci cambiamo tutti totalmente da sotto a sopra, poi si comincia a lavare tutto, e lenzuola, e fedele, tutti i cose, è chiaro, no? È normale, perché diciamo che a fine settimana il lavoro diventa un pochino, cioè la lavatrice lava di più e deve lavare di più. E vabbè, la luce si paga, non è un problema, domani la pago io, 196, quasi 197, più la tassa della cosa, praticamente 200 euro. 200 euro di luce, si abbassava la luce, infatti ogni bolletta è sempre più cara, ragazzi. Non è possibile. Bobo, avanti, grazie. Basta attaccare a rubare della luce, della strada, come che uno vi conosce, e vi fa di luce. Da poi corri, quando tu vieni venire a controllare il nuovo impianto, ma ha fatto pure il ponte e tutto, scacca nel dusto. Che diciamo io, uno che fa un mezzo di Sassari, una volta che era in Gancia la Uzi, non dico un cognome, ma si chiama un vescovo, già l'abbiamo pure divorziato, già c'era sul giornale, l'abbiamo volato la Uzi, uno che non sa chi sono i possibili, vabbè, avanti, Giammai. Sono in maniera se ne intende di casa a Vaghiccio a fare i buchi pure a Graziano, non sa più dove va di qua parte, ma si sa che è lì, ma non la lascia fare, no, Graziano. No, anzi, le è andata via, che io l'ho invecchiato un rattoppo, no, ma fa vedere che era una mancia, alla giubata più manna la mancia, no, ma fa vedere che era un rattoppo, la consa. Marazzucchi, e noi lavorati noi, collegatini, anni. Mettere male, era accappaggio, pure di volte erano tre mesi, era incavaggio, riprendi giù, mi aspetto 5 minuti giù. Sì, va bene. Così è, grazie. Non fa isso è furbo. La vuoi tappare un buon rimucchi, e lei non mi viene, non mi si è dato di venire a tappare i mucchi, e non mi viene. E quante che si chiede che ha tappato, se proprio camuro che da cos'è nella casa, ha tappato, che so per l'arte, e viene un mucco di rimbigo, e da pensando che me l'ha intoccato, ma l'hai vista la televisione. Eia, bello macco, chi si la macca a vedo? Prenda il piccolo pala e quel pappagalli, venga con me, mi si brucia in questa campagna, scappi qua, scappi in fretta, anzi di tutto il lato del cavo, e cosa cazzo? andato, ecco preso, e tu paga Marco, ah? Vabbè, pure un evano in granchia, allora qui, i sardini hanno un bel di utensi, utensi che addirittura a Manova Marco li conosci. E lo più visito a noi, mia, è Puttedora, che c'era sul giornale, mio, te lo presenti una pesceria, Puttedora, capita, vedi, 2700 ottenze, che a Manova, ma con i conoscia, quando ha fatto il censimento ha copiato a tutti. Mi hanno detto, non è proprio di niente voi, ma non è possibile, capita. Oi, ti dà la cosa di là, non hai compreso che sei data. Una frunata di rubenco e di chi mi travaglia il vicino si è fatto l'insegno con la mola in terra attraversando la strada, no? Il rubenco ha chiamato più capo della strada passava nei dubbi di la luce e vedo dal tecnico, insomma, una freccetta di 5 cm a fatto. La base poi ti dico, con un maschietto pneumatico, piccolino, no, ta-da-da-da-da-da, si è fatto la traccia, si è posto un tubo, ha cavato dall'altra parte e si è poi collegato l'eba. Ecco preso. Poi lo fanno finire il taglio, si è posto un catramme sopra l'impatto, un catramme liquido, e l'ha tutto impasticciato con la terra, ma fa confondersi con l'asfalto. Non è possibile, oh grazia, è una vagogna, è una vagogna che si deve intendere queste cose. Purtroppo la gente va un coraggio di farlo e cosa vuoi che ti dica? Babbo, da che mo li fa, da che mo? Se no fate ne peggio. Uia, riprendi. Se già gatto quindi so, ma come in capo vado io, di gente che fa questi travagli, ma anche lì, quando ho fatto dei lavori in casa lì, sa sali vecchio, e lo dubbio entrava la pura, bucato lo muro e collegato ai ghivi, tu l'ha dato pure acqua, c'è un berlinato e non si vede a lunga, hai compreso? Sì, ve ne so di chi si butti, e chissà quanto ve ne so ancora. No, ma, tu vendi a rubato di leva, a Manò ha fatto il censimento, ormai ho messo che ve ne saranno i bocchi, ancora sicuramente si inacciappano, magari cose, gli utenti che non sono riusciti a copiare, però non ha ricopiato sicuramente ha fatto il censimento di tutti i canti di contatori e dunque avrà ricopiato tanti ottensi assurdi. Non è buona sepa di 100.000 abitazioni che so che io 80.000, se non è possibile, se vedo 100.000 abitazioni, vedo sicuramente 100.000 utenze, invece la cosa non risultava, e allora hanno pensato di fare lo censimento, e hanno fatto, ma che così si deve fare, anzi, l'hanno fatto troppo in retaggio, buco, riprendi. Ehi, tu, a tuo censimento, venne gente che... Si ha accubiato questa gente di vecchio, si ha con le paghe con la luce, non ti credimi. Viene gente che non paga né luce né leva, a chi ha già niente come ti va. Tuia, è pieno, si ha passato che lascia tu che burro me, non ti credimi. I grandi erano i contatori vecchi, e andati a una casa, che l'ha fatto i travagli, e rimasto si via a fare una traccia a fare i pensavo che c'era un contatore, pure i figli nuovi, dubbi nuovi, e allora era il ripiccio del contatore, un pezzo di pellicola, di 10 pellicole di cinema, è entrato dentro il vetrino dal contatore. La padrona e ha visto la luce vera, ma non in maniera né sempre femmina. e appunto io lo controllo lì, è l'unico, capita, e voi dovete controllare direttamente dalla centrale, compreso? Sì, sì, prima con quello contato le pesce si vogliava così, mancava pulire una pellicola o una. Un pezzo isolante, le bloccavi la rotella, bloccavi e il puntavo lì non segnava. Però la corrente logicamente era sempre, compreso, la tensione era sempre. E dunque la gente ne approfittava. Ma più di uno l'ha ricopiato, più di uno l'ha rinunziato, pure mi avendo avuto così, che quando avevi la vita che controllava i puntatori, magari si dimenticavano di ritaccare un pezzo della pellicola e allora lo rettorista si avvezzava e denunziava, compreso, e più di uno l'hanno sagamato. Ho entrato, infatti anche se l'hanno sgamata, è capitato così l'hanno sgamata, ero travaglieri ancora lì, però ero nel cortile, penetrati. Però la femmina veniva pure una, due di veniva la femmina, sapeva due, tre ore morendo, no, a chi si travagliava? Sono travagliata da chi dà? Lei nella lettura del contattore gli dava fatto entrare, era da mettere entrare la Ianna allo sportello con il contatore, anche allora era dentro in tua casa il contatore. Cazzo, si è messo uno sportello e si è messo una pellicola, a chi gli dà quando si decide di andare a travagliare con la pressa? Si è dimenticata di dire a Nicio, l'hanno denunciato, non so quanti di Napa, un'altra cosa, siccome noi vabbiamo ancora il contatore è in casa, hanno fatto gli irchi giusto, però non è mai giambaggio a che la ditta fallito e aveva stato la cosa come te. Allora hanno fatto il lavoro, ho fatto tutto l'impianto nuovo sulla scala, hanno messo il cistofoli tutto qua, quello molto piccolo, hanno infasciato lo prezzo del contatore, hanno infasciato, ed era il contatto di prima, così che però quando me l'hanno infasciato io non mi sono capitato, da voi abbiamo telefonato a disegno, che no, che vero, lo contatore infasciato, che l'hanno infasciato lì che hanno fatto i travagli. E allora già che sono parlati a controllarmi, hanno visto qui, dice, e qua adesso facciamo l'esperto, si pensava che l'abbiamo infasciato lui per fare il travaglio, capito? Invece si è già si è avvisato chi era il fatto. Aspetta, e lui gli ha pagato un bene, dice che non è possibile, capito? E così è stato, però male non male su niente, infatti mi ha risambato subito un contatore, che dopo allora è spaccato in mezzo, capito? Però non si poteva mettere né pellicole né niente, gli altri sono avvisati, niente, capito? Sì, e a me dai dalla Sagannazzo, lo papà di puntatori io della vostra pubblica, no, la due fase, hai già bugiato da lì, sono stati 50-60 montanti prima di vacconi, e di vacconi abbastanza alti, buono, mi si dà di molto, hai affittato se cazzo di andare a puntatori, e aveva facciato lo prendo di un puntatore, io ne avevo quattro in tutto puntatori, uno per la corrente normale, per la luce, no? E tre per la posta motrice, a che stanno di buniare, tre di buniare di contatori per la posta motrice, uno bisogna base. E dunque per mai facciato un prezzo, mai facciato dello contatori. Allora sono passato a lei, ha detto così, ha detto sì, vabbè, non si preoccupi, scendiamo a cambiarlo e così, sì, vabbè, mi dia qualche garanzia che sono venuto a fare denuncia. Mi ha dato un foglio, me l'ha timbrato, no? Avviso di riparazione per un inconveniente su uno dei tre contattori della forza motrice, una cosa del genere, ha scritto. Avevo buttato un timbro, avevo una prima. E me l'ha ragazzo sempre così, però non girava più, lo cusano non girava più, poi la cosa si sega, allora la borsa molto dice così, se non gira questo, gli gira anche due contatori con questo, cioè tutto questo che vi è consumato, la mano della battesima, lo sento, c'è motivo che non funzionava questo contatore, però io mi segnava l'asse di chi va fatto di questo contatore, le segnava automaticamente l'asse due contatori, compreso, che non aveva problemi, ma dopo da voi di una decina di ISO giunti e da una corsa, l'hanno giambato addirittura il suo contatore, compreso Gianmarino. Pensavano che io l'abbia faccia a Dio a fare qualche trucco, no? O manca pensavo queste cose che... E allora non mi faccio il guardatore, ma attennante. Però hanno visto che le cose erano tutto diverse, per cui me l'hanno cambiato subito. Infatti mi hanno messo subito il contatore nuovo e poi modirmi, per cui sono tranquillo, capito? Meno male. Però se lo mette su una rivista in ogni maniera, e allora magari più pensava che era una cosa del genere, in giù, capito? Sì, beh, naturalmente è un situamento di fila, no, no, perché a me si è giunta di questo lato il numero, pensa che era appena passato l'elettorista, era passato da pochi dimmi, 3-4 ore prima era passato l'elettorista a 10.9, che non passava, no, in giro. Ma che va la poi ha visto un tante che è mi si sono dati voce, che l'ha già appoggiato forse un po' contrinati, da non baci. Mi si sono dati voce, come ti ha attaccato la seconda, no, vedi era lì, i puntanti attaccati al motore della seconda, non era un paio. E ha sottomato tutto e si sono dati voce, e se lo caggiù dove quello dal contatore. Ma da voi pochi sono giunti, intanto nel frattempo hai controllato, torna la vettura, e non ti viene chiesto così, no. Nonostante che io sono cazzato subito mi a fare la denuncia, che mi aveva paura lì che non voleva pensare che la faccia lui o appunto da mettere ma per pigliare la corrente, no? Come se non andate mi ha chiamato un foglio mi ha rifatto, no? Che io quanti io vi ha presentato un problema all'Ener e non mi aveva rimbolso un dito la prima faccia un pochino sono giunto da un giambato, ma tutto mi risultava e quando sono giunto a giambato mi si vede la giornata ti preoccupa che quello che è consumato pure si chiama non girava più la rotella, che aveva fissato pure la rotella, compreso mio marito, la rotella, rotella che viene girava, chi ce l'aveva fatta un fare, l'aveva messo fissata la via. E si va tranquillo che lui non ha segnato dei nomi, gli ha segnato di altri contatori, sicuri, ma che funziona così. Ah vabbè, tanto, già siamo tranquilli, compreso. Però l'hanno giambato e la poi giù apposta. Ma poi con un tempo, con l'anno, sono giunti hanno questo contatore che fate muoci, no, questo elettronico che ormai non lo controlla di più, lo controlla direttamente dalla centrale, compreso. Forse sono migliori, dice, sono migliori, più tranquilli, perché adesso lo leggono dall'ufficio solo, dall'ufficio stesso lo controllano, leggono la lettura, capito? Per cui è tutta un'altra cosa, non vi viene più a controllare la dentugata, lo controllo direttamente a loro con il computer, capito? Sì, ormai non lo controlla più, non controlla niente direttamente, da voi devo andare la lettura. L'unica cosa che deve fare è dici la lettura che hai fatto è da vedere se corrisponde al contatore di lui. Io la controllo sempre e in effetti risulta sempre, non sbaglia noi, è sempre giusta, che è per giusta, altro che. E va bene, ti grazie a Edu. Se andando a pigliare la ciarroba, Edu. O se pigliando il caffè a faccia noce, grazie. Un macello. Ma fermi, vai! No, io non vedo che ci sono, io che tutto si arrabbia, ovunque. Non ho mai dato in strada, si fendeva. Grazie, ma io dici se sta piovendo. Non si è fatto sì prevedentemente, deve essere da farato. Ha piattato, deve essere che ha piattato il diporo, L'ho fatto il diporo 11.45 metri, già ha piattato già. Oh, ha fatto bene. Beh, lui ha tanto spazio lì in campagna, a Puglia. sai quella vecchia, ma un palo centrale, buoni, lo metti a voi ripita, sì, oppure lo puoi mettere anche disteso in orizzontale, intanto vedo e avrà lo spazio, sei in campagna, dunque, ma in altra capettuglia viene un poco male, perché se fa anche 45 metri, siamo sull'ordine dei 20 metri di lunghezza, 10 per braccio e anche di più, 20, 22, capisco, sì che ci vuole molto spazio. Per accorciarlo un pochino bisognerebbe mettere una pulvertita, ma avanti non so, poi dopo te l'ha piazzato, già se l'ha arrangiato, no, non ho sentito nemmeno io a K2, boh, strano però, perché io anche alcuni giorni fa lo chiamavo, ma non c'era evidentemente, e vabbè, vuol dire che è indaffarato, grazie, è rientrato, sì. Come ce l'avevo qui in campagna, io ce l'avevo qui invertito, da un albero olivo a un albero di Nespoli, e parlo dell'antenna del baracchino, capito? Per, no, è dura, c'è stato sì, ha messo la carrucola, ha messo a farlo della mantova, solo che doveva cambiare la posizione perché non andava bene, e doveva spostarlo a un'altra parte. Specialmente il polo caldo avevo indirizzato verso da questa parte, capito? Così che doveva farsi sentire, infatti dice, adesso faccio un lavoro, dice, più tardi, dice, e riaccendo, dice, vediamo un po'. E invece lo si è fatto sentire, evidentemente, deve essere da parato, là. Si farà sentire domani mattina. Ok, riprendi. Ok. Sì, beh, certo, io già l'ho trovato, un modo come piazzarlo. Ma se non lo mette alto la terra, c'è poco da fare, non esce un granché. Vabbè, lo userà, forse lo userà quello anche per ascoltare le bande radioamatoriali, non lo so. E anch'io un giraglio me lo faccio un dipuro qua e me lo piazzo, perché sennò tutte le volte mi tocca, quando devo ascoltare mi tocca staccare l'antenna dal baracchino per metterla poi nell'altro per poter ascoltare. Invece se faccio un dipolo, così rimane sempre attaccato, ciccia, qui posso parlare anche, nel frattempo anche ascoltare altre frequenze. Gira, mi ci penso e me lo faccio anch'io un dipolo qua. Già lo so come fa, non vedo problemi. Riprendi. Era il telefono. Ehi, è facile quello, non prima va via Ungra, via costruito io e andava bene pure, però in quella posizione l'ho messo, non mi stava bene, e allora ho dovuto togliere, e poi avevo una rivista, ho visto questo tipo 11:45 con la trappolato, ma mi pare che questo è più corto, per cui prendo questo qua, e già me l'ho ordinato e me l'ho fatto arrivare. Infatti avevo anche quell'altro, il lato di Adalla Te, il Birlongo, e mi ha stato di su 11:45. Però siccome dopo l'ho buttato in terra l'albero che appoggiava il dipolo, e l'ho tagliata, perché era in mezzo alla lattica, la ripola mi rompia, così in terra la ripola e la giocava del dipolo, era sempre ben conservato in campagna. Chiacchierando, c'erano un dipolo. Se mi ricordo che c'era in campagna, l'altro rapporto, te lo regalo, ma che l'ha giurato, e se l'ha piazzato, l'ha regalato. Era nuovo, e cosa ho usato almeno un anno. Poi l'ho conservato bene, e per cui quando l'abbiamo aperto, infatti, è venuto a prenderlo, ha visto, era nuovo. Ma non c'era un altro di fondo. Mi sembra che c'è anche quella del 160, mi sembra che c'è abbia, così adesso. E ha piazzato anche questo, così che deve piazzare un altro, boh. E lui lo può fare perché magari è isolato lì, non l'ho prestato a nessuno, c'ha tutto il posto che vuole. C'è una palatina per cui già va bene a piazzarlo, capito? Perché c'è l'antenna alla Mantova, la piazza sul tetto e ce l'è posto. Ho visto il punto come è fatta con la casa, per cui c'è tutto il posto, capito? la tiene bene. E poi c'è anche altre antenne, va benissimo. E ma fai accusato, e faccio un secondo forum, e vai lì, là. E tanto, mai accusare, io, quando avevo fatto la comunicazione, la radio comunicazione a 4, più una 3, ho fatto la comunicazione, e quando mi chiedeva a sentire, la sento, e fa bene, tu ha seduto, hai capito? Senti, 27, insegniamo. Oh, già ho dato un po' che 27 sta a Parigi. Raramente, non mi piace, no, no. Piacciono questi qua, questi vanno più bene, ma ne chiedono tutto qua. Però qualche voce è costo romantico, per cui tu di foro puoi anche mettere. Sì, infatti, ci stavo pensando, no, perché tutte le volte mi tocca staccare l'antenna, insomma mi viene anche un po' male, tutte le volte si devo passare il razzo da lì, da Urino, per non spostarlo perché viene male, e allora devo staccare l'antenna e poi attaccarlo nell'altro per ascoltare, e invece io ce ne ho tutti e due, ho il dipolo, ho anche l'antenna, l'antenna da mattino e il dipolo rimane nell'altro apparecchio, e posso ascoltare tranquillamente, capito? E ci stavo pensando. Ma io me lo posso, va bene, appena che comincia a migliorare un tempo, ma non faccio una salga mi fuglia, o ma come sogno, vado e non lo faccio, filo già ne ho, la voglia filo che mi manca, ho delle matasse di filo, ti puoi immaginare, se per quello, poi ho anche altre cose, o anche, come ad esempio il materiale per fare gli isolatori ce l'ho, la scatola ce l'ho, la scatola per il centro, diciamo. Solo che quasi lo compro da lui, ce la ciappo, ma non mi sa se lo vendete, ma sì. E me lo faccio anche meglio, lo faccio, così almeno. Stavo pensando addirittura di farlo con la piattina e farlo anche per gli 11 metri, capito? Se lo faccio con la piattina, in un unico filo, lo posso fare sia per ascoltare le bande radioamatoriali, lo faccio principalmente per i 40 metri e poi intanto già ascolto lo stesso con le altre frequenze. E poi posso fare anche quello per gli 11 metri, tutto nello stesso filo, capito Gio Maria? Però con la piattina, non so se te la ricordi, con la piattina che vendevano una volta, la bianca, la fibra, là si chiamava fibra, si interrompe ad una certa misura, sia per gli 11 metri e un'altra misura per la frequenza dei 40, quindi con quello dei 40 posso ascoltare anche gli altri delle altre frequenze, che 20, 30, 10 anche, capito? E allora, no, ma come vuoi me lo faccio perché almeno non sto lì a stare cambiando l'antenna da un apparato all'altro, tanto più che mi viene anche male, invece va giù fisso, lo tengo fisso e basta, capito Gio Maria? Se ci lasci l'antenna, la vecchia, non andare a vedere Matteo, quando ti metti la nuova e non fai il bipolo e usi l'altra antenna. Vabbè, posso mettere un palo a bandiera per mettere l'altra antenna, sì, anche quello si può fare, ma non ne voglio buonino, io penso che antenne, ne capito, io me lo grazie, non ne voglio mettere, no, non mi piace vedere tutte queste antenne, no, assolutamente, ma grazie anche, visto e considerato che ho intenzione di prendere l'antenna senza radiali, dunque, può essere anche che ci faccio il filo a bandiera, un tubo a bandiera e lo attacco lì allo stesso palo, nello stesso coso, può essere anche, non lo so, comunque vedremo, là. Andrà bene. Riprendi, grazie. Basta che ti procuri due braccetti di cantiere, no, che c'hanno il morsetto già attaccato. Attacchi due di ghiscia. Uno pinato, uno più basso, ci metti due morsetti stessi dal cantiere e non anda nessun luogo questa antenna, quella senza radiale. E andava pure così, no Giovanni? Ma in tante maniere andava in tante maniere, tanto sicuramente, ma se basta almeno, chi non c'è può fare diversamente. Lo usi con l'antenna, con l'asino che devi prendere. Ci metto un commutatore a 4. Ci metto un commutatore a 4 e usi con l'antenna sia per la ricezione sia per la trasmissione. O giù, non fai altro che commutare da un barattino all'altro e sei a posto. E noi siamo tutti civili. Io ho un carro solo, qua c'è un deviatore, di quelli buoni però, intendiamoci, io ho quello tutto in ghisa, a cuscinetti, per cui è difficile che si sfasci quelli. L'altro ha pagato un bene, l'abbiamo abbinato due, uno va a Vittorio una rossa e uno va a me. E io ce l'ho ancora, per cui faccio la conversazione da questo, oppure attacco l'altro e mi ascolto, oppure qualche volta parlo, si sente, capito? Sì, così si può fare lo stesso, però o ascolti uno o ascolto l'altro. Invece lui va, fa vedere un baracchino e con l'altro magari ne mettevo le cuffie, basse e sentivo quello che se, dell'altro anche, capito? Tutti e due sentivo sia il baracchino che la, e facevo ascolto anche nelle altre frequenze, tutto lì, ecco perché volevo fare la doppia antenna o per così dire, o di polo, capito? Se non lo so, basta prendere un commutatore antenna e ho sistemato il discorso. Ma io voglio utilizzare tutti e due contemporaneamente, perché mi pongo i cuffi, mi pongo, me li metto basse e basse, ad un orecchio ascolto e all'altro ascolto la 27, capite? E poi ci parlo anche della 27. E non posso pure con le macchine di calcio tante volte mi metto la televisione che c'è la partita di calcio, mi metto la cuffia, mi metto, ascolto e parlo a baracchino, io dico così che ne buono la mattina, capito? Ormai sono allenato a fare queste cose, perciò posso sfruttare contemporaneamente tutti e due, ecco cosa volevo fare, capito Giovanni? Tutti i gusti lo so qua, e a me mi sa che funziona uno e basta, da voi sono qui tanto duraccio, e vabbè, ognuno fa come crede, davvero, ma te come stai dicendo il tutto, va benissimo con me, e per ascoltare passo un pezzo di quello, forse beh, magari non è che ascolti tutto quello che vuoi ascoltare con l'antenna sul tetto, però già funziona ugualmente. Ok, riprendi, grazie. Ehi, a cosa vai? Il cervelletto a una parte ascolti baracchina, all'altra parte ascolti Caimo Giuretti, chi dà? Boh, e come ci vai? Dio, come fai giù? Dio, come fai? Grazie ancora, non le sa queste cose. Già si arrangia Giulio, già si arrangia. Come ti posso? È semplice, no? Accendo il ricevitore e mi pongo la cuffia, mi pongo, no? Va bene? E mi lascio un orecchio libero, mi lascio, va bene? E con l'altro lo uso per il baracchino, no? E faccio trasmettendo e ascoltando le altre frequenze anche, ecco come ti posso. È tanto semplice, Gereo Grazia. Lo faccio sempre. Quando io per dire avevo tante volte sono a baracchino e c'ho anche la televisione accesa e magari sto seguendo un telefilm, sto seguendo un film della televisione e perché mi metto le cuffie e mi metto la televisione bassa e dunque posso ascoltare benissimo sia il baracchino, tanto è vero, rispondo come vedi, rispondo sempre per tempo e magari mi sono capito di buon film e quindi posso seguire anche il ricevitore dei radioamatori, capito? Grazie, come posso fare? È semplice, non più l'università e non fa una cosa del genere. Esca, Pettina. Capito, grazie. Ma di cui ci lo facevo e ci vuole di manda. Prendo le uno e le all'altro. Ciao Mari. Come ti so che fa vedere un tengo e l'altro mi fa vedere. Come ti mi ha detto il dottorino? Mi ha detto se ti stai parlando con me ti stanno chiamando gli altri che ti stanno parlando anche là. Tu non percepisci bene né a uno né all'altro. Cazzo, beh, mi sembra logico. Ma perché lei cosa sente? A me e a quegli altri. Se sta parlando con me come fa a sentire gli altri? sto guardando. Che carattere di giorno? Ho le cuffie. Io non ci credo. C'è che? È un orecchio libero. E l'altro è occupato per le cuffie. E sto ascoltando la televisione e sto chiacchierando e ascoltando la baracchina. Vedo poi, evidentemente, va bene, se no non l'avrei fatto nemmeno io. Grazie, insomma. A chi sveglia? No, no, io quando gioco a ragione in culo, a ragione di cucchissi, dopo mi devo affacciare il televisore e non fa vedere un baracchino. E se non lo comprendo né chi dà, né a destra né a sinistra. No, così è imbrabugliato tutto il cervello, no, non andrà bene, no. E che poi là, un film per dire non lo segui bene. Cioè, se sei la mia, e va bene, penso così e giù. E allora, Graziano, non è allenato, capito? Graziano non è allenato. Mi adesso mi tanto per dato l'idea. Ascolta, Graziano, quando senti a Claudio, tu chiedigli quanti apparecchi ha accesi. E cosa ti chiedi? Se viene accesi, chiedono intendi tutti quanti. Ma cosa stai dicendo? E ci vuole un pochino di allenamento anche, se vogliamo. Chiedimi a Claudio che ne ha uno per ogni frequenza di apparecchio acceso, ne ha uno in 20 metri, uno in 20 metri, uno in baracchino, ne ha uno in 40 metri e così via. E tu pensi che lui lo sente tutti? È una questione di abitudine anche, Graziano, non è un problema, guarda. Basta avere adesso bionico e si appoggio. Vai, Graziano. Se mi posso la recce bionico, intendo, anche tu portate 10 chilometri, intendo, con 1700 euro. Oh, a me, mi darebbe fastidio, lo sa, già ci sento, non è che non ci sento, anche io qua molte volte, c'ho il baracchino acceso, il televisore, però no, lo guardo qualche volta, così però non l'accorgo. Se si occupa di vedermi, non mi voglio accorciare pure il danno. Sento, anche se lo sento, se sto parlando con te, parlo con te, noi mi posso fare da un tempo e parlare ci parate a cucciare i fatti di Guido, capito? Già mi capita, perché non mi capita, però non gli do corda, non ci faccio caso, non è che non lo intendo, già lo sento, però per dire, se io sto parlando al macchina e c'ho il televisore acceso come molte volte qua, ogni tanto già gli do un'occhiata con lo sguardo, quindi, però non lo seguo il discorso del film, capito? Me lo guardo così a occhiata e boh, già, non è che non lo intendo ma è superfluo, cosa vuoi dire? Non lo considero, ma... Perché non lo segui, perché non lo vuoi seguire, solo per quello, ma se ci fai caso e ti ci metti, lo segui e non lo capisce, sai quello che dicono, come no, oh mai. Te lo sto dicendo, quando entra Claudio per questa, chiedigli, Claudio, quante apparecchiature hai accese? Tu dici, tutte, te lo dice perché è così, io lo so che fa così. E lui li segue tutti, perché è giusto, se li accende li devi anche seguire, se no cosa andando a fare? Ecco qual è il discorso, oh grazie. E ti posso garantire, è anche una questione di allenamento, questo sicuramente. Io devo dire che ci riesco, cosa vuoi che dica? Anzi, ti dirò di più, che tante volte mi è capitato di metterne tre. Ad esempio, la notte, tanto per fare un esempio, adesso ti spiego. Io quando sono a letto, c'è mia moglie che guarda la televisione, no? Lei ha le cuffie e io ho le cuffie, va bene? Allora, allo stesso tempo uso un altro auricolare, e mi metto la cuffia, mi metto, e l'auricolare nell'altro orecchio e seguo la televisione e il baracchino, ad esempio se c'è quel se ho al baracchino. Questo mi è successo tantissime volte durante la notte, e perché no? E questo tutto tramite praticamente, metto la cuffia, no? La cuffia, allora cosa faccio? Anziché usare la cuffia stereo, uso la cuffia mono, la cuffia mono ti dà la modulazione solamente in un padiglione da una parte, dall'altra parte, sotto la cuffia, ci metto l'auricolare, non un'altra cuffietta, però è auricolare, e mi metto quella in quell'orecchio, sicché posso sentire, mi regolo i volumi sia della televisione che del baracchino, e seguo ad esempio la domenica sportiva, per dire, dello sport, eppure il QSO del baracchino, o viceversa un film e il baracchino. E questo lo faccio molto spesso io la notte, quando c'è QSO. Io quando sono a letto faccio così, ecco, sulla televisione e allo stesso tempo il baracchino, capito, grazie? Guarda che si può fare, non è un problema. E non mi dà fastidio, la verità non me ne dà fastidio. Certo, si dà un buon volume altro, si dà una cosa che l'altro diventa tutto legge, che va del raccomando, cante un panino di Santa Maria, ma deve regolare, deve mettere basso, il volume basso, in modo che un volume non possa disturbare l'altro. Capito? Io grazie a prova, ci mi vedrai che anche tu ci riuscirai, le prendi. Per dirti c'ho la boomerang sul tetto, no? Che da quindi la girando un video, una di acchittato non lo trattavo mai ed è rimasta sul tetto. Quando lo operavo quella, però lo operavo perché avevo messo il tappeto che andava in camera da letto, capito? Se sono bassi tutti e due riesce a percepire perfettamente sia una cosa che l'altra, dunque non ne ho problemi. Avanti Gian Maria. Prego. Bisogna avere l'udito sdoppiato. cosa diversa, perché se parlo dei due insieme non riesco a seguire né il discorso di uno né il discorso dell'altro. Cava cava, avanti Gio Marino. Graziato, ci prova stanotte e dopo ci dà ragione che anche lui adesso si abitua, riprova Graziato. Riprova stanotte, domani, dopo ci dice ragione ci avrebbe. E capita così, mi graziato. Capito? Noi abbiamo fatto pratica così, grazie adesso, così che fai pratica tu. Paghi non mi naggio di bisagulare ci di giù. Tu Maramazzaro, Gianni, prova tu e domani mattina guarda le orecchie, la recce di Giumbo decidi. No, io contemporaneamente posso fare una cosa, ho il computer e magari fare ascolto, quello sì, fare ascolto dell'auricolare, però così no, non ci riuscirei, secondo me, voi può darsi che col metodo che su Giulio ci riesca anche a farlo io. Ma sì che ci riesci, tutto sta per provare. Anche quello buono questa cosa, e buono, la cuffia come ti ho detto, e l'altra parte proprio il coso, l'auricolare, no? E poi cavalco anche, vediamo un po'. E facciamo tre cose tutte in una. Avuto un milione di un'attitudine enorme. Molte ragazze che ho ascoltato, il baracchino ad esempio, e poi ascoltavo anche in due metri con il servitore, un sacco di voci, lo ascolto ogni tanto, lo ascolto, capito? Metto la cosa, me lo metto vicino, di fronte, così, e quello senza cuffia me, nemmeno senza cuffia quello, così ad orecchie nude, sia per il baracchino che per il ricevitore dei due metri. E quante volte l'ho ascoltato? Centinaia di volte l'ho ascoltato. Adesso mi dà un po' di tempo senza ascoltarlo, però per dirti no, lo faccio sempre, queste cose le faccio sempre. Ti devi allenare, graziati, devi allenare queste cose, allenati, vedrai che poi ci riesci. Vai Giovanni. Aspetta, c'è il qualcuno di sopra non lei, voleva entrare, mi sembra, e avanti vuole entrare. No, negativo, Gianni. Ehi, sto accompagnando mio nipote, un secondo e crescendo. E poi riprendo. D'accordo. Grazie, bisogna avere un po' di intelligenza, ragazzi. Tu prova, ci non ti costa niente. No, ti ci provi, vedo un po'. Sì, in due cose e in tre cose, vedo un po' come, qual è la posizione giusta. No, no, a me mi dà fastidio, non è che non rientro, io all'interno ma mi dà fastidio. Mi puro i nocchi, se non ti occupa di vedere i nocchi. E chi su Lucane ci vuole una baggiare con una mela da un'altra ai nocchi, posso bere là, perché mi dà fastidio, non è per altro, molte volte anche se accendo il televisore, lo abbasso, mi guardo le figure, però non la ascolto, e qualche volta che c'è è come che non lo ascolto, capito? Già lo seguo, però non lo ascolto. Se sta qua a vedere i nocchi lo posso ascoltare a voi, al televisore, l'ubriso. È tutto questa l'abitudine, grazie. E ormai noi siamo abituati a queste cose, sappiamo già come capiamo tutto, sia una parte che all'altra, capito? Tu se fai questa abitudine per riuscire anche tu come noi, ecco il fatto un punto come me. Capito? Riprendi giù. Eppure dovrebbe essere allenato lo stesso lui, lì. Perché qui è un chitarra, grazie. Quando eravamo in falegnameria, se c'era la pialla accesa, sentivi il rumore della pialla e si vede pure circolare da gente, non ti dico un rumore da circolare. Io sentivo, io tante volte accendevo tutte le macchine e sentivo tutto perché stavo facendo una lavorazione che passavo da una all'altra e poi sentivo tutte le macchine accese, sentivo grazie, e sentivo la regannata, sentivo la doppia, e intendia la circolare, e intendia la bialla, da tutto insieme, perché no? E devi essere allenato, si trova da alleni, se no va a ragione Ampli for me, non sono qui, se no devi dovrà andare da Ampli for me. Fa un po', volevo avuto 1.400 euro a Graziano, meno male è stato attivo, bravo Graziano. Eia, ma però al paragliameria era su gocce, si occupa di un travaglio già rincendiato tutte le macchine, specialmente chi dà il in fondo a tutti, chi sa chi fa da chi punia la lama della sega circolare, tutta la ditta via, zicchi, chi sa prende la rece di centrale. Andate passava le dauri che frusciava, poi l'aspirazione accesa, e mentre le sentivo, non è che non le sentivo, però seguivo quello che stavo facendo. Appunto, seguivi quello che stavi facendo, quello sì, però lo sentivi, e se volevi stare più attento, avresti sentito anche meglio. Se io sentivo, per dire, se io sto lavorando alla pialla e c'è uno che sta lavorando alla circolare, benissimo quando in bocca la tavola, il legno pagliare, capito? Così è, sono questioni di allenamento, grazie. E ci sono rumorosi davvero le macchine, non è uno scherzo, no. Eppure riuscivo a distinguere benissimo tutte le lavorazioni che si facevano, non è un problema, no. di ma vi siete casati 50 anni? Certo, questo sì, d'accordo. Però per dirti, è possibile distinguere. Capita, se due sobrienni, per esempio sei bassetto in carriera, bisogna due bassoni che sono brienni, e se sono disegni baronacci l'uno con l'altro, non li comprendi tutti e due. A me mi pare che sì, perché è normale, no, che si capisca quello che dice uno, quello che dice l'altro. Perciò qual è il problema che non riesce a sentire sia il baracchino e sia la televisione contemporaneamente, con i dovuti volumi naturalmente. Se a voi tutti e due ad alto volume non lo comprendi, no, è logico che non le capisci. Ma se abbassi i volumi e te le regoli giusti giusti, stai tranquillo che capisci e come. Anche se non le vuoi ascoltare, lo senti lo stesso e lo capisci quello che dici, capisco. Magari non stai seguendo una di noi, una delle due cose non le stai seguendo, però se ti chiedono cosa dici tu, tu mi sai rispondere sicuramente. Perché? Perché hai sentito quello che ha detto, ecco qual è la differenza, oh, grazie. Sì, a sentire che lo sente, però mi dà fastidio. Aspetta il telefono, riprendi Giovanni. A lui mi dà fastidio, giù. A lui mi dà fastidio. Ma io qua la notte, io la baracchino lo spengo verso le 8 meno 15, le 8 meno 4. Lo spengo e ci guardiamo la televisione, quando mi curi qui io, ma sia a mezzanotte sia a mezzanotte e mezza, ma c'è la televisione, se no non dormo, ma c'è la televisione, abbasso tutto il volume e vedo qualche film che c'è, però riesco a capire quello che stanno dicendo, ma ormai non mi interessa che dice un volume a comprendere, ma comprendo come c'è, va bene, come c'è apre la bocca, riesco a comprendere, non tutto al 100%, però la maggior parte che riesco a percepire cosa stanno dicendo, perché so già in che cosa si tratta questo film, hai capito? Sì, perché se riesci a leggere il labiale delle persone, quello sì, tanto meglio se uno ha un leggero, un auricolare con un volume bassissimo, è tanto meglio, già il labiale ti aiuta, perché riesci a capire i movimenti della bocca, eccetera, e più se uno ha anche l'auricolare a volume bassissimo, ma veramente basso, che non possa dare il minimo fastidio, perché no? Va benissimo, non ci sono problemi, no, io la verità lo uso quasi tutti i minuti così, quando c'è gente al baracchino, sino allora che c'è gente, anzi tante volte è capitato anche tardi di sentire ad esempio Marco e anche Antonello, tutto tardi, mi verso le 11 e mezzo, una cosa così, mezzanotte anche, avere la televisione accesa, avere il baracchino anche in quasi in stand-by, con un volume azzerato si può dire, vedere lo smitter che si muove, mi metto subito l'auricolare e ascolto. E quante volte è capitato? Questo anche verso le 11 e mezzo, mezzanotte, non è un problema, perché cosa? Oh, Marco alle volte ti muoio la multa di una notte, capito? Perciò qui c'è anche Antonello e anche ad altre persone. Ma è semplice, dai, già si può fare. A lui magari le dà fastidio, va bene, d'accordo, capisco che le dà fastidio, a me sinceramente non me ne dà fastidio, io ci riesco ad ascoltare, capito? Giovanni, è un fidato, a lui gli dà fastidio, molto fastidio, per cui non lo fa. No, io sinceramente a quell'ora io non lo posso guardare solo la televisione, quello a televisione muta, ecco, però come attaccare il baracchino non accendo mai, prima delle 8 lo spengo, non lo tocco prima di domani, no. Magari un tempo, sì, anni fa, molti anni fa, anche alle 4 e 5 di mattina, prendevo l'apparecchio e me ne andavo a lavorare. Però adesso no, sono mezz'anni che non riesco a accendere il baracchino di notte, non mi fa assolutamente. Vado nel corico, mi guardo sulla televisione, intanto da potermi venire in sonno, perché a me dopo una mezz'oretta mi viene il sonno, oppure se c'è qualche cosa molto importante, riesco anche alle due e mezzo di mattina, riesco a sopportarlo, però dopo mi viene il sonno, spengo tutto e mi addormento, capito? ma che lo facendo a quell'ora? Oh, assolutamente, sì. Dopo le 8 io non mi vedo. A te ti piace ascoltare, non riesci a ascoltare, per cui tutto va bene, a me no. Graziano, vediamo un po', Graziano, se la notte lo ascolta il baracchino, Graziano. A tempo ancora, Gianni, rientrato, sì. Non ci sono, non ci sono, no, ma è così, io ad esempio, ma adesso quante volte abbiamo sentito ad esempio Claudio che ha la stazione accesa, sta magari in altre frequenze e poi sente anche a noi, quante volte non è entrato e quante volte ha detto sono in un'altra frequenza, perché? Perché vuol dire che sente sia a noi che agli altri, no, ma è normale, quando uno è abituato, c'era un amico che adesso purtroppo è morto, un certo Totò, perché questo qui era nato in Arabia, però poi era era figlio di genitori siciliani, no? E dunque è vissuto in Sicilia, veniva sempre in bottega, forse l'avrai visto qualche volta anche tu, e quello anche sottovoce, anche parlando sottovoce, aveva un problema all'orecchio, che sentiva un vibrato, sentiva, tu per parlare con lui dovevi parlare piano piano, piano con le parole così, Totò, questo è così, capito? Ascolta, capito? Tra una parola e l'altra dovevi fare una pausa lunga, se no lui non capiva assolutamente, perché per dire, ascoltare me che parlo anche velocemente, no, con cui parlare tu e tante altre persone, lui aveva un fastidio tremendo, sentiva un rumore vibrato e non capiva le parole che si diceva, non capito, Dio Maria, è un problema d'orecchio anche. Mi conosco qua, sono io pure di quelle persone così, dovevi parlare basso in modo che non dia fastidio a quella persona, infatti, perché sennò gli dava molto fastidio e gli dava prurito. Non conosco io una persona così, infatti quando parlavo con lui dovevo parlare piano piano, ma piano, chiama la pena, mi sentivo io, ti puoi immaginare, e lui se ne riusciva a sentire benissimo, però se parlava forte stava male, si metteva la mano sugli orecchi perché gli facevano male, e dice insomma che quello è possibile. Ok, vediamo un po', grazie a Vas, se ce l'ho chiuso, che devo fare una cosetta qua, per cui vediamo un po', grazie, no? Graziano deve essere ancora al telefono, e approfitto, gli va, chiudo eventualmente se coincida domani per fare una cosiddetta, mi sono dimenticato, devo farla per forza, per cui ne approfitto, ciao, grazie, la chiacchierata, buon proseguimento di serata, buona chiacchierata ancora, c'entra Graziano, me lo saluti, io chiudo, vai, ok, ciao. Ok, ciao Giovanni, alle prossime, dai, a domani, così almeno facciamo due chiacchiere anche domani, sì, intanto io adesso esco fuori a staccare la lavatrice, che mi ha detto mia moglie, guarda se mi puoi staccare la lavatrice, che non ci voglio uscire, che c'è freddo, perché noi abbiamo, avevo fatto io il box nel terrazzino, avevo fatto per la lavatrice, capito, in un angolo del terrazzino, e dunque devo aprire la porta a finestra, uscire dal bagno per andare poi dentro questo box dove c'è la lavatrice, e gliela stacco, capito, e mia moglie dice che ho freddo a uscire fuori, adesso calda calda, poi dal riscaldamento a uscire fuori, già è mezzo influenzata, e allora ha detto no, già esco io, gli ho detto, capito, e adesso esco io e la stacco la lavatrice, ma buon, ciao Giovanni, grazie per la chiacchierata anche a te, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ok, ciao Chilo, buonanotte. Ciao ciao, buonanotte. vedrai che ci dici. Ti metti la cuffia mono e poi e senti un orecchio. All'altro orecchio ti metti l'auricolare, sia a posto. E allora Gio Maria Sarrada che si ha fatto la reccia a Giumbo, televisore baracchino. No, assolutamente. No, aveva un impegno, doveva fare qualcosa. No, guarda che non sto scherzando, Ivi, ma se vuoi ti posso preoccupare la televisione mentre io parlo con te e dopo ti dico quello che ha detto la televisione anche. Vedi, adesso è tratta mia moglie e la giudizio perché le ho passato il telefono a lì dopo. Gli ho detto, cosa ti ha detto Rita? Ma di tu niente. E beh, così già la intendo, ma oggi si muore a pavità. Lo posso accusare a te, a Eda. Quello io voglio dire. L'accetto a te, a Corca Eda. Perché tu devi fare attenzione a tutti e due, ecco qual è il discorso. Se tu non fai attenzione, lo so che lo senti, ma se tu non fai attenzione a quello che dice uno e che dice l'altro, è logico che non lo potrai mai seguire bene, ma se ci fai attenzione, si impara anche bene la legge. E stai tranquillo che capisci sia l'uno che l'altro, non ci sono problemi. Allora domani posso commentare che si giovanotto vi cambia sempre la stagione. Longo, mi va via di balafanga, poi sulla recce, conosciuto là. No, tu devi fare, quante parti dell'elefante? Devi andare a bella recce, hai visto l'elefante quando lavora al circo? L'elefante segue il domatore e più segue anche gli applausi del pubblico. Tu devi fare così. Eia, e posso come te che sei riuscita al televisore, la dice una cosa non mi piace della mia corporatura, una cosa sola, è vita laggiù. E che cosa non ti piace? Sei perfetta, sei proprio perfettissima. Dici, la sta a dormire, va via la recce Mariani, di barafanghi Mariani. Vabbè, che se non è un problema, ma se mi dà la pubblica, da Canada non vai bene, mi dà la pubblica. Se va bene, adesso va in quella legge, muro, come sai, muro? Non è un problema, non si muore, no. Ma tagliando un pezzo della legge non si muore, dunque. Qual è il problema? Va via la legge come ti rubi il pistrello, presenti mi dai un pistrello, no. Datemi vedere, arrazza la legge, vai, giù i sventoli. Due lecce come te lasciuta a Banni, uia. E a proposito della lasciuta a Banni, tu, non sai come si chiama il sassanino, lasciuta a Banni, te lo metti che da fare smugna in andata la coppa di due bracini, e lasciuta a roba, in poche parole. Il sassanino, non mi vuoi più tu, lo sai come te, se no te lo dico io qui. Ma lo diavolo! Ma cosa diavolo? I safari di legno, a ponte, a cerchio, sopra, buia, è nata la goffa, una roba sopra, la città, quando d'inverno, quando va via, quando si usavano le giri, punivano gli anziani, punivano la città roba, è nata la Brasile, punivano, no, che c'è un gesto di legno qui, e poi è sopra la roba, la città, con un calore di un fuoco, e tu non lo sai quanto ti chiamo, non lo conosci il safari. No, già lo conosco, ce l'avevamo in campagna, vera la gorgola di legna, un centro buniamelo, Bragini, è nata al centro di Rubuco, lo diavolo, un barattolo di belato, a becco, era, sotto e sopra, chi c'era lo diavolo, da me buniamo una specie di cupola di secchi di legni larghi e fini, e sopra buniamo la roba, già l'ho conosciuto. Quando è colassa che tira corrente, va da bombaiola, no? Qui su lo diavolo si bonia, ma attendi un fuoco in presa, ma non va qua lì su. Qui su la buca di un fuoco che era attesa, si indicava, si bonia che tu cerchio di legno, non sai quante si chiamava, visto? Tu non lo sai quante si chiama il sassariso. No, ma a me tu giuro che candela vicino, non so come cosa, dove a Cullini, e ti vengo a dire, ma metti ancora il nome, lavorare Marilvisa. A Coccia Becchi, bussava un coso, Maria un cavallo, Maria, senza mondante, l'ha sbagliato il prossimo. Cosa succede? bimbi da dentro. Facevano schifo, ma come non ha più posto? Ti puoi immaginare? E poi arrivi così, così si sta lavando, beh allora, boh, non è possibile. se vedi va via un po' di melamina, ridignia, compresa, ridignia. Cosa cazzo che ce l'hanno bruciati? Bruciati da un miscio. Sarrava subito un vascone. Alla parola non ha più visto, non ha più pure. Ma c'è rimane anni mi caricarono i tanghi in casa, ma non furente, avendo un cortile sì, ma dentro casa cani grandi, manco per idea, no, no, non fa che poi puzzano anche. Portate che dica, ogni agheta la lava mi figliura, ogni santa agheta. Adesso lì comincia a pigliare un po' grubbia quando viene a giocare vicino a me, eppure vedi, e va giù tutto, mi va l'odorante, lo sciampo profumato gioio, però massimo 3 dì comincia a pigliare le ubriaco io. Ma è lo sì, perché va di mare, va tanto buio buce a sé, sì, sì. Ma lì addirittura non in buchia proprio, quando mai uno prende la canasco di azzurra, da via azzurra che sta a casa, se delichi un sacco della mondezza viene, se lo vedete un sacco umano lì si vedi che vendono i negozi dei supermercati, no? Che io li comparavo per la mondezza, per la serratura li comparavo con i sacchi, sì, 1 metro e 10 per 70 di diametro, ti puoi immaginare un sacco per mano, pieno di mondezza, è tutto quanto un brutto da lucano in terra, ma non è mai uno venne a dire con questa vita mania, mamma mia, e ha avuto un coraggio di venire nel me a dirgli si piazza con la serratura, io sono andato, ma a me era un travaglio come il lasso, ma appena ho visto così, no signora, non sono lavori che faccio io, non faccio altre cose, e me ne sono andato, con questo. Ma ti pare che tu eri via Giotto praticamente, mi via nulla attraversavo questa che via della vice Maresia, e avrai da pure l'angolo, via Giotto numero 1, sono andato in Chivi, pacca le dare, che puccaria di Vremena, oggi. No, ma a me mi è capitato un bel di voci, un bel di casi, pure in casi come i tipadici, zona di luna e sole, quelle zone lì, no, di signori, come ci dice niente, che da qui sono figlio di malattie popolari, pure lì. A entrare se si cade, andare a chiamare la volgibile, o a piazzare i vacconi, ma venire la di buoni ci rimane in capo, ti piace sempre il natale vacconi a pigliare. Se no venire a digrimare, già mi è capitato spesso, più una volta, se no cani, gatti, babiani, paria lo zoo, paria bisloni, fate cantare in tibirà, no, questi non mi piace a me, manco per idea. E da qua io la mondezza e lo grumazzano, la piglio la busca, brusino è piena, la zaro, la bocca più buona, poi la riduce la lampada, che la divinità di sera. E però ce la buttiamo ogni giorno, mica mi la tengo di la mondezza, la poggio una piana e l'otto, tu prima che farà, mi la busca ce la fa un cascio, sei un gaucci. Un CB, un vecchio CB che avrai da tantissimi anni e non è entrato più in frequenza. Da quando era lo stesso che si era ammicato con una bippa, si era ammicato, un marito di Isabella l'aveva avuto, un paio di Eda e dalla voce non è più entrato in frequenza, né Edo né Eda. Beh, ed era curivato un pulito, e mi aveva ordinato delle bestie di cucina. Gli posso una Puglini me l'aveva ordinato, venne la Puglini, mi sei busto, quando sono entrato in questa casa manco mai va via i vostri mediati, mezzi strinti, si è versato con i moccasini, è arrivato le belle, le volte attaccate a terra, me ne riuscite le belle dalle volte, le riuscite, da tanto appiccicavo a terra le belle, ogni schifo, ma io non lo so, hai visto che non è che si gibì, è un ex CGB che ancora oggi è a Sagatta. Con questo, è stato esattamente in via Nulvi di casa, un schifo, tu devi vedere questa cosa, grazie, un schifo veramente, se ti sono presente che mi si attaccava nelle belle a terra, mi si attaccava, ma come le fai le volte vai deriati, se no mi diceva nelle volte la bevi. In adiuvisio se no andò a piazza Cuzzini, dice, mia marita non ha fatto in tempo a imbianchinare, niente le fa, se la attacchiamo lo stesso, ma fa scherzando, si è tutto pieno di grasse, no, che dice, cosa si vuole piazzare, la cucina a questo muro qua, no, guardi là, telefono al principale, gli dico che la camera non è disponibile, e venga l'altra settimana, poi so fare da lì se le conviene. Beh, tingelo fa, si lascia il muro tutto pieno di grasso dietro i pesci, bella cosa, io non ho mai visto cosa del genere. Poi se vuole che gliela piace, io gliela piace, no, no, allora forse è meglio fare come mi ha detto lì. E pare c'è niente, gli ha rubati, ma un bel niente non era fuggi a nuda. Sì, non c'è che zozza, risa, ma calendari. Non piglia che ti invita a mangiare, anni. Cioè, ti esiste meglio meglio, pa, calendari, non è possibile. Non è possibile. Sì, lui, anche nelle zene, lì, si è stati di più benestanti, sì, non ha già avuto di chissi benestanti, tutti quanti fucci. Però tu li vedi tutti quanti vedi truccati, tutti quanti vedi profumati, eh? Maria, un mucchinaggio, tutto l'altro, una specie di niente, dove c'è un po' di cosa lampata, una mazza, l'altra, scusi, sa, c'è un po' di disordine, non ti preoccupi signore, sono venuto per lavorare qua, non sono venuto per guardare la sua casa se è in ordine o disordine, a me non mi interessa, basta, soprattutto gli saienti, io grazia, venire, niente, pinghinoso, ma pinghinoso, almeno, in una maniera impressionante, ma io, Pucci. Purtroppo, poi tu magari li vedi fuori, li vedi, no? Tutti quanti di sigaretta di punta, di taglienti, tutti gli eleganti, tutti con lui, vedi dinti, e la buia andare a casa sua e fare entrare in lui e te, tu. Sì, si sei canti in isogiane, ho trovato lì, in quelle ville lì, in via Oriani, Ivi, Rubangato, tutte quelle ville lì. Lì sono andato a fare lavori, villera nei cazzo fa di anni bizzai, 30, una vetta, una casa, una villetta, 30, un fiaco, un pingo, però già ne ho trovato anche che mi facevo fare i botti e mi dati alle le spadrille, alle pattinette, a chi dici sono di ceramica, l'abbiamo fatto quest'anno, il papà non c'è problema signora, ma come i cazzetti miei erano i ciambadugnati. Non era tutti a preoccupi nuda, oh per carità, noi rubrimo Gianna Gaudio, è un bel puro, a chi cazzo Gianna Giuliata andava a far travagli, ma... Una vista che è andato sopra in via Roma, in via Lombetto per la vecchia, in divino la voce della reina, ma non so come si vede ancora, la reina, chi su palazzo della reina, aveva fatto un travaglio in chivi, fa così, la risfottete sotto la bandina aveva fatto. No? Sono andato e vedevo via Sardi, ho fatto il sportello. Quando sono entrato in questa cucina, senza esagerare, sono alzati, ma proprio senza esagerarmi, dando 50 nei 60 piatti, e tutti tanti i passi andati al bancone della cucina, così, andati alla banca, un schifo, una cosa, ma si vedeva che erano i piatti da 3 o 4 lì senza la mano. E dice, mi scusi, sa, c'è un po' di risorse, dice la donna delle pulizie non è venuta oggi perché si sente male. E io dico a me, a che tu fai rimane truncati, vai a lavarti tu i piatti. Ma quando mai tu ospiti una persona a casa tua e gli presenti la casa in quelle condizioni? E mi dico, ma non ti bui, non ti scusi da una cosa, mi fai più bella figura. Ma carità, bucci. E lei la vita, la moglie di uno che va a un negozio di ferramenta in Sassari, un bel importante, un negozio veramente un bel importante. E lei veniva con tutti quanti i tubiati, ha bisogno di avere 3 o 4 lì, era via pure via Gusi, erano i tubiati. Bucci! Sei gente mandrona, già l'ho trovata anch'io gente che chiede, oggi non è venuta la ragazza, neanche ieri si sente male. Mi se me ne sposta da lì perché devo lavorare proprio lì sopra, o se me ne cade qualche ferro gli rompo qualche cosa. Sì, mi rivocava da chi mi cazzo di bugnare, qui Natale Gadri, io mi riviniava, e io no. Bravo Landino, levo la reticella perché sempre qualche cosa c'è, la scuoto nella pattumiera. Mi lavo tutto l'avandino, ma asciutto rimbalzati, gli sgoccioli giù leva, al bongo lo sgoccio la piazza, se bisogna fare dimmi l'asciutto e ritorno a rimbalzare, però in giro non lascio niente. E lascio tutto in ordine, non ne voglio vedere oh, roba, o oh, pazzi, o ghiccio, o ghiccio, no, no. Ci rimangono solo i soprammobili, un piatto che è una bella figura, un vasetto, va a cambiare il piatto della frutta, un portacenere che lo metto a parmelletta perché non ci fumo qua dentro, fumo nel terrazzo, abbacco la biscio. E passo la scopa, buce pulito, la passo la matte, scuro la banca, ma basta, allora con tutti in ordine tutto pulito. Di mondezza in giro, no no, ma una volta la pattumiera c'è per caso è quasi piena la giambola muta, specialmente se furi il pesce non è buro io, lo pusce Paoletta, a chi non mi piace lo piace. La muccia avanti l'ha pulito, la zarra ce la pongo pura, allora mi fa se la posso la passuta, intanto come è possibile se lo piace, se lo pesce. Tutti quanti la sopra, mentre gli osso, mentre la buttare, anche giusto che sia così, a chi tu puoi entro a buttare ma sta sopra, non è niente con l'elicottero in casa tua, no? Compreso, grazie. Vabbè, no, ma non è sempre buritto, mica, che volta chi vai bene tu, a chi la cane sempre bussa la bici, non entra nei ripugli dall'albero che vede, ad avanzare a bussarvi, sono 3-4 alberi, e quando fa di vento, che bussa mi con i 30 ripugli, se no, già è pulito da noi, proprio bagliccio, non è che ti previ soltanto, della strada. ed invece la mattina lì, la mattina di Lungutini praticamente. Sì, che è un passaggio di chitarra, famiglia, e lui ha detto che quanta voce facciamo il cancello, sì, ma adesso non posso perché ho il mutuo, un sacco di toni, un altro peso, ha detto vabbè, dice, mi deve aspettare fin quando non mi adeguisco dalle spese, perché lo cancello si avvale in due, no? E si avvallo, un peso, e allora è ancora aperto senza cancello, capito? Io ogni 2 o 3 mesi mi lamento, sì, ancora dice, ancora non sono in condizioni, vabbè, e così via. Però io, tutto sommato, tranquilla, io la famiglia tranquilla, e non vedo avviare, insomma, ma lo manco, questa voce non mi ha dato mai fastidi, se siamo già 11 anni, no, che pensiamo, e non c'è stato mai un minimo di cosa, di discussione, compreso, tranquilli. Che cosa vi può fare un cancello? Basta la stazza sui pilastri e da qui mi fa pure giù il legno, meglio. Oh, e abbiamo recuperato pure l'origine di comprare un cancello di ferro. Ce n'è uno qua, dove va mia moglie da questa signora una volta alla settimana, a Sant'Orsola. Però sono villette che sono indipendenti, sono in mezzo ai palazzi, no? La capindute, belline, c'ha tutto il cancello fatto in legna, ma lo sai che bello, anche con i rombi li ha fatto, e nel rombo ci ha messo una griglietta, ma non rombi manni, no, saranno i 50 batti 50, e all'interno c'è quelle grigliette ricamate, c'ha la radiatura, però invece di bonigli bucati con i rimuloni, laggiù salgiati, ci ho messo due traversine, no, per congiungere con l'altro pannello, anzi abbiamo butti, una di ne abbiamo fatto tutte e due, però sono grandi, tre pannelli visommi, tre pannelli sopra e tre pannelli sotto, viso, e i pannelli mi pare sono da 1,50 m di lungo, di larghezza, e anzi avevamo un bus, poi la chiudinto a pistola, papà prima sempre. In giro di una settimana ha giù fatto i cancelli, i pannelli ho murato nel muro che avevo fatto, quando ho fatto il muro avevo già messo dei paletti slingati a occupare il muro e avevamo saltato questi pannelli, avevamo fatto pure la recinzione. Ma prima o poi, intanto un tempo viaggio, prima o poi ando con un pareggio l'uverlo, dopo tiene cattolato, un bicho cattolato da 8 cm, 8 a 4, lo posso dire su un materiale, metto il bolso, la bottonina, metto il bolso, pongo la taglierina, pongo il disco abrasivo, va a tagliare l'uverlo e lo posso in chiwi, non ho vero problemi. Però poi lo vuoi, tante volte che si scrive, la gente ha roba di 7-8 volte e aspettiamo ancora un po' perché non ce la faccio e così, ma d'altronde cosa vuoi dire, una persona se ne mette le 4 di contatto ma andare a lavorare, no, non andare, comprendo la gente che andò, non ha e basta, è utile c'è anche lì, adesso chi gira ira me lo mostro io e basta, non piazzo e ciccia, e la buoni lo compro la chiave, te. Chissà da dove alle giave, tanto sicuramente prima o poi devo fare uscire, vai da grazia. Non è che posso fare diversamente. Purtroppo è così, non tu so mi grazia. E allora cosa avremo? Mangiamo? Subito, tanto avevamo il vostro insulino, intanto io ceno verso questo rasso. Se no ti fai un giro, un bel di voci, quando lavoriamo da Marcito tanti anni fa, pure avanti, quando recuperano i cancelli, chi si muore, la rubava e la poi rivendia. Se vai un giro a paese da Davoni, da Marcito, o guardi le misure, e se non mi avete fatto, gli dà una pitturata, sai, magari giambe lo brucia, che lo brucia fuori, giambate, e va già un cancello fatto. Se non sai chi va a pazza già, capi? E poi va pure un giro così. No, compare c'è un ferro, casomai da Marcello, l'ho catturato con pareggio, e da voi me lo posso io così, ma mi ha preso un burro, no? Così era ma come faccio un burro un tempo. No, lo posso nuovo, me lo usate io, ma tessi, non ho problemi, io ho quella età. Mi sono catturato da 8 cm, 8 ma 4, con pareggio, da voi andò la Carboni, con pareggio qualche ricciolo, dice ricciolo che vende, ne ha fatti, no? E dunque stava secca all'altra, ve lo mongo queste cose, così lo completeggio, no? E lui è facile, mi ha chiesto andare a Carboni, va in tutte tante le cose, anche direttamente a saltare. Non credo che vi siano delle montanze, ma qua si vedono buonissimi, non lo so, però tutti tanti i secchi, ad esempio, le riccioli, tutti tanti queste cose travagliate, vi so, compare giri, compare e vai con viso, compreso, grazie, non è visto il problema. Costa via, che cosa non è? La gioia di mondati e so che cosa non è, però tutto sommato fatto buono e lo posso, ma io sono sempre esperienti che guida intervenga e ponga la pace sua, ma mi sa che ti puoi esitare ancora un poco, ma pure dai, non è un problema, me lo posso io grazie, di legno sì, andare a testa di legno vedo, però la buona deve c'è sempre di niente, un legno si fraticheggia con il tempo, no, è meglio lo cancello, anche la terra è lo stesso, lo posso di legno, la buona, quella cosa lì, io sono come a solaccia, lo devo cominciare sempre io, compreso, invece del diverso, lo cominciare una volta ogni 2-3 anni, andava, si mette in legno, quello diciamo di ogni anno, massimo di ogni anno, inizio lo scorso, grazie, dopo manutenzione devo quello legno, e allora è meglio farlo di da marina, compreso? Quella persona è venuta e me l'ha preso dalle mani quella parete. a venire. Ciao.